la bozza di accordo prevede un cessate il fuoco temporaneo e poi entro 45 giorni la discussione per un accordo che dovrebbe includere quindi il programma nucleare iraniano e tutte le altre questioni aperte come la completa apertura dello stretto di Hormuz. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte ad una bozza che è molto simile a quelle che venivano proposte quando era in corso la guerra a Gaza, cioè di una fase iniziale di cessate il fuoco che poi avrebbe dovuto portare ad una seconda fase per una, in quel caso, rilascio degli ostaggi e poi quindi una fine, una tregua permanente. Evidentemente l'Iran non accetta questo approccio, un approccio che appunto ricorda molto quello che Israele, gli Stati Uniti, i mediatori hanno avuto rispetto al conflitto a Gaza e ci tiene invece ad un'intesa che preveda prima di tutto la fine completa delle ostilità. Quindi gli iraniani vorrebbero la fine della guerra e evidentemente la fine della guerra poi porterebbe anche delle implicazioni, cioè per esempio la riapertura dello stretto di Hormuz. Allora, finché questo tipo di approccio non viene considerato come valido da gli Stati Uniti e Israele, in questo caso con la mediazione di vari paesi, pensiamo al Pakistan, all'Egitto, alla Turchia, è evidente che l'Iran non ha intenzione di accettare nessuna bozza di accordo, la rimanda al mittente, si sta preparando ad nuovi attacchi su larga scala. Pensiamo che in queste ore è stato attaccato South Pars, vengono attaccate le infrastrutture energetiche, petrolchimiche, nei giorni scorsi sono state colpite le università, dai politecnici di Teheran, l'università di Isfahan, l'istituto Pasteur, continuano ad essere attaccate scuole, ospedali, evidentemente anche treni, in queste ore si parlava di attacchi al sistema ferroviario, evidentemente tutto questo rappresenta crimini di guerra, sono crimini di guerra che vengono commessi da Trump e Netanyahu che perseguono questo stile di conflitto senza pensare che invece l'unica via d'uscita sarebbe fermare i raid e poi ovviamente negoziare un accordo per esempio sul programma nucleare iraniano. Anche lì si è aperta un capitolo enorme perché si parla di diluire l'uranio arricchito in Iran oppure di portarlo fuori dal paese, ma anche in questo caso bisognerebbe vedere come si fa ad accedere a quest'uranio. Continuano gli attacchi anche alle centrali nucleari come quella di Bushehr, quindi evidentemente la situazione è esplosiva nel paese. Le notizie di queste ultime ore riportano che Mojtaba Khamenei sarebbe stato di incoscienza e in cura, però insomma mi sembra di capire che dall'inizio del conflitto comunque l'Iran abbia una grande capacità di resilienza, in particolare su appunto il governo iraniano. Da un punto di vista di politica interna, prima di tutto non si sono mostrate le masse contro il regime che uno si aspettava, che ci si aspettava considerando le proteste di gennaio scorso, quindi vuol dire che c'è una sorta di unità nazionale che poi può essere dettata anche dalla guerra, dagli attacchi continui, da 2.000 morti, poi le fonti sono molto varie su questo, alcuni parlano di 3.600 morti, ovviamente inclusi anche i militari, quindi evidentemente è un paese in guerra, quindi si unisce a sostegno del nazionalismo, del patriottismo, eccetera. E quindi è chiaro che da un punto di vista di politica interna l'Iran sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia, tutti i vertici politici sono stati uccisi, ricordiamo oltre ad Ali Khamenei anche Hilari Janin, che era una figura di riferimento per l'establishment politico e religioso, e a questo punto non si capisce chi governa. Sicuramente Mojtaba Khamenei è impossibilitato in qualche maniera, non si sa fino a che punto, addirittura alcune fonti dicono che sia incosciente, però non è detto che non abbia in qualche modo la capacità almeno di mandare dei messaggi, sono stati letti più messaggi dalla televisione pubblica, anche se lui non si è mai mostrato in pubblico dopo la sua nomina. A questo punto quello che si può dire con certezza è che l'Iran è un regime militare, vediamo continuamente i proclami dei militari, sono i militari a prendere le decisioni essenziali, i vertici religiosi, inclusa l'intelligence, inclusi i centri di potere più importanti, sono stati accantonati, eliminati, quindi questo significa un regime ancora più radicalizzato, ancora più con la volontà di portare avanti il conflitto, di non arrivare a compromessi. Il pensiero iraniano a questo punto è che se dovessero accettare un'intesa ci sarebbero guerre continue contro l'Iran, quindi Israele e gli Stati Uniti potrebbero attaccare di nuovo tra qualche mese, tra un anno e così andare avanti fino a che l'Iran diventa uno stato fallito, una sorta di Siria. Invece gli iraniani vorrebbero lavorare ad uno scenario tipo Vietnam, cioè una guerra che mette talmente in difficoltà gli Stati Uniti da diventare una debacle, una sconfitta, così come è stata la guerra in Vietnam. In questa ottica, lo stretto di Hormuz, che abbiamo già citato, gioca un ruolo chiave, nel senso che abbiamo visto come le ripercussioni per la chiusura appunto di questo stretto si siano riversate in una crisi energetica Turchia, che sta già colpendo anche l'Europa, ha già colpito anche l'Asia, e viene da chiedersi se Stati Uniti e Israele non l'avevano previsto? Questo è il punto più complesso di questa guerra, perché evidentemente da una parte è uno stretto, quindi vuol dire che ci sono anche altri paesi che sono, si affacciano su questo stretto, per esempio l'Oman, quindi l'Iran sta compiendo un atto illegale bloccando uno stretto. Ovviamente si tratta di una guerra illegale, quindi c'è una spirale di illegalità, continuano ad essere commessi atti illegali. Lo stretto di Hormuz è centrale perché lì passa il 20% del mercato petrolifero mondiale, il 90% delle esportazioni iraniane, soprattutto dall'isola, attraverso l'isola di Targ, quindi è evidente che è importantissimo, è uno stretto strategico per gli interessi economici, politici, geopolitici iraniani. A questo punto l'Iran si trova di fronte a un bivio: la possibilità è quella di arrivare ad un protocollo di intesa con l'Oman per gestire i flussi attraverso lo stretto, oppure imporre delle tariffe, delle tassazioni che siano simili a quelle che vengono imposte nel canale di Suez, o anche più alte, in queste fasi forse sono anche più alte perché c'è un contesto di guerra, oppure se non si arriva a nessuna intesa addirittura minare lo stretto, e in alcuni punti probabilmente questo è già successo. La strategia iraniana è a questo punto di far passare le navi amiche, pensiamo alle navi cinesi, pakistane, bengalesi, ma anche spagnole, turche, e invece impedire il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz delle navi nemiche, come quelle degli Stati Uniti e di Israele. Vedremo fino a per quanto tempo questo è possibile, e evidentemente il modo più semplice per sbloccare lo stretto di Hormuz sarebbe chiudere la fase della guerra. A quel punto immediatamente lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, e questo sarebbe darebbe respiro al mercato petrolifero mondiale e all'aumento dei prezzi che si è registrato in queste settimane, che evidentemente è la strategia più efficace che l'Iran può mettere in pratica, cioè aumentare i costi di questa guerra per gli Stati Uniti e per l'economia globale, per spingere le grandi potenze a fermare questo attacco. Abbiamo visto un Donald Trump mostrare i muscoli, essere minaccioso, però di fatto è in grande difficoltà rispetto a questo conflitto. Gioca ancora il ruolo israeliano in questa, nella continuazione della guerra? Cioè Trump non pone fine a questa guerra perché Israele continua a volerla? Trump si è fatto trascinare in questa guerra da Israele, sta continuando a fare gli interessi israeliani, perché un Iran debole soprattutto soltanto negli interessi israeliani. Quindi è evidente che nonostante l'avvio di questa guerra sia stata brillante, appunto con decimando i vertici, decapitando i vertici della Repubblica Islamica, poi Trump manca di una strategia, crede che l'Iran debba capitolare, debba arrendersi, ma questo non succede mai. Evidentemente questo implica anche che ci siano delle divisioni molto forti all'interno dell'amministrazione statunitense. Pensiamo ai nomi di chi ha deciso di non sostenere questa guerra, come Joe Kent, il capo dell'antiterrorismo, ma anche Gabbard della CIA, che ha parlato appunto della mancanza di una minaccia imminente da parte iraniana, ma sono state tante altre le defezioni anche all'interno del gruppo MAGA che sostiene Trump. Evidentemente questa guerra non piace agli americani, soltanto una minoranza la sostiene, e quindi Trump è in grande difficoltà perché sa che sta perpetrando una guerra impopolare che non ha niente a che vedere con quell'attacco mirato che lui aveva realizzato in Venezuela, che ha portato in pochi giorni a prospettive migliori per il mercato petrolifero statunitense in America Latina. Quindi evidentemente ora Trump deve trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita dovrebbe essere la fine delle ostilità, però in realtà questa fine delle ostilità dovrebbe trovare una prospettiva di accordo che l'Iran in questa fase non vuole accettare.